tutti convocati. Weekend 800 24 00 24 per chiamare in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, chiocciola tutti convocati per seguirci su Twitter. Tutti convocati per questa domenica da Circolino Rosso, da grandi emozioni. Abbiamo appena vissuto, lo avete sentito nel notiziario, quelle dei motori con Vettel vincitore a Spa, ma uno straordinario Alonso secondo, poi Marquez che continua a dominare la MotoGP. Tra meno di un'ora a San Siro si rimette in moto la giostra dei gol della Serie A dopo i primi verdetti di ieri. Tra qualche istante vi daremo anche le formazioni ufficiali di Inter Genoa. Staremo insieme fino alle 19 per raccontarvi davvero tutto di questa domenica di calcio, di motori, di sport in generale, per parlare, per farvi parlare con i protagonisti, con grandi opinionisti, insomma per parlare insieme a voi se lo volete. 800 24 00 24 e adesso la nostra prima pagina. Come un anno fa, ma questa volta fa più male perché il Milan non pensava di restare fermo al palo al via del campionato e invece è successo ancora. Il Milan delle creste e della gioventù cancellato da un quasi pensionato di 36 anni. Parte il suo cross per Toni! La schiaccia Toni! 2-1! La doppietta di Luca Toni! Un esordio fantastico alla prima di campionato con la maglia del Verona! E l'incubo si chiama PSV Eindhoven, che è improvvisamente anche il crocevia della stagione di Massimiliano Allegri, che è parso nervoso, arrabbiato con i suoi, tradito dagli uomini su cui contava. Ci è mancata sicuramente la cattiveria che ci deve contraddistinguere per cercare di fare risultati nelle partite che giochiamo. Bisogna togliersi un po' di presunzione, in certi momenti della partita la mettiamo in risalto e questo non va bene. La vecchia signora aveva bisogno di un corsaro per fare un altro salto di qualità. È arrivato la Pasce, 2 gol in 2 partite ufficiali, bianconeri già davanti a tutti, anche loro tutto come un anno fa. Vucinic la mette al limite, arriva Vidal, pallone di ritorno, Pogba, porta vuota, Tevez, rete, Juventus in vantaggio, la Pasce. Io sono contento perché diciamo che su Carlos ne avevo sentite di cotte e di crude, invece ho trovato un ragazzo che è un campione non solo in campo ma soprattutto fuori dal campo. A me al di là del campo interessa anche l'aspetto umano. E oggi attenzione alle bucce di banana, attenzione alle distrazioni da mercato. Garcia ad esempio sta discutendo con la Roma per avere un erede di Lamela. A Livorno però non può cadere, non può farlo nemmeno il Napoli di Rafa Benitez, il primo Napoli dell'era Higuain. Oggi tutti dicono che la Juve è favorita perché l'anno scorso hanno vinto, la squadra ancora è forte, è lo stesso allenatore, so è così, ma non sempre vince il favorito. A San Siro c'è forse l'ultima di Moratti, si presenta a Mazzarri che rischia e non poco con la sua Inter incompiuta. Ora si parla, tutti parlano, tutti fanno obiettivi, sbandierano, fanno. Io sono sempre stato abituato a fare fatti, a lavorare e spesso in base a quello che si diceva l'estate successiva è successo un pochino qualcosa di superiore e diverso. Lo abbiamo detto, è però anche una domenica di motori e che domenica. A Spa solo Vettel è arrivato davanti a un fantastico Alonso, secondo in rimonta per mettere a tacere gli scettici e ridare fiato e speranze alla Ferrari. Sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare, il nostro obiettivo è vincere qualche gara di fila per andare ancora in lotta per il campionato, per quello dobbiamo lavorare nella stessa direzione che abbiamo fatto qui. Vettel, Alonso, Hamilton, per lo spagnolo una montagna di 46 punti da scalare nelle prossime 8 gare, però il mondiale c'è ancora una speranza. La MotoGP invece ha un dominatore, si chiama Marc Marquez, a Brno 4° successo consecutivo per lui, mondiale sempre più vicino, gli altri tutti dietro a guardare il destino dei numeri primi. Tutti convocati. E questa era la nostra prima pagina, straordinario davvero Alonso, anche se il mondiale piano piano sta volando verso Vettel, verso la Red Bull e tra 2 settimane a Monza non c'è più futuro per la Ferrari e mi sembra che anche la prima notte a San Siro per il Milan mercoledì assomigli un po' a un'ultima spiaggia. Ciao Carlo Genta, buon pomeriggio. Ciao Giovanni, buongiorno a tutti. Assomiglia all'ultima spiaggia che abbiamo raccontato per la Ferrari nella nostra prima pagina? Beh, ma lo è assolutamente, ma io credo anche che Milan avesse la partita con il PSV nella testa, troppo brutto per essere vero quello di ieri sera, troppo spento, troppo inutile per essere vero. Credo che il primo pensiero del Milan siano quei 30 milioni che possono arrivare dalla Champions League e che possono cambiare i destini di questa squadra un po' depressa. Quindi paradossalmente non è quasi una sorpresa la figuraccia di ieri a Verona, perché il primo obiettivo stagionale è fissato per mercoledì notte e credo quello sarà. Ieri sera ho sentito Boban dire una cosa estremamente corretta nel dopopartita. Un'analisi spietata. Sì, fa impressione il fatto che il Milan forse per la prima volta non dichiari tra i suoi obiettivi lo scudetto, non dichiari la Champions League, anche se sono stati nelle ultime stagioni obiettivi un po' demagogici, però fa impressione il fatto che il Milan dichiari, l'obiettivo è quello di uno dei primi tre posti. Obiettivo nemmeno troppo facile, visto il Milan di ieri e visto il roster. Sì, Milan davvero troppo leggero, Carlo, soprattutto in difesa. Un Milan mi sembra che non ha corretto i suoi difetti, i suoi soliti errori, quelli che si trascina da un paio di stagioni, sempre con Allegri in panchina. Il primo, ovviamente, quello che è più evidente per tutti è la fragilità nelle situazioni da palla inattiva, sui colpi di testa. Ieri Toni ha fatto a fette la difesa del Milan. L'anno scorso era capitato 15 volte, nessuno aveva fatto peggio in tutta la Serie A. Però io non so a chi dare la colpa, e allora, siccome Galliani fa il mercato con i pochi soldi che gli dà Berlusconi, ti dico che secondo me la colpa è di Allegri, perché un allenatore alla quarta stagione con il Milan, dopo aver vinto uno scudetto, comunque aver raggiunto i risultati che ha raggiunto Allegri, deve anche avere la forza di non accontentarsi e di imporsi, altrimenti non sei l'allenatore del Milan. Ma sì, ma Allegri è in una posizione di debolezza strutturale, cioè Allegri è sempre stato messo in discussione fino al primo giorno, quindi lui non può imporre niente e lui stesso ha scelto di restare lì, quindi di accontentarsi di quello che gli danno. Quello che gli danno è pochissimo, onestamente la difesa del Milan vale la metà della classifica, forse anche quella di destra, dunque Allegri deve fare meglio con il materiale che ha, che ripeto è poco dietro. Perché anche ieri sera, secondo me, la partita dal punto di vista dei cambi, tra i tanti errori che ha fatto, però questo è il Milan e dunque deve affidarsi a Montolivo, che è indietro di condizione tanto da essere un giocatore men che normale, e a Balotelli, che deve rendersi conto che è la superstar di questa squadra, non può più nascondersi dietro agli altri. Di conseguenza il Milan è quello che abbiamo visto ieri sera, non credo molto di più, e Allegri non può neanche accampare delle scuse, altrimenti sarebbe stato meglio andare via alla fine in estate, sarebbe stato meglio accettare altre offerte, sarebbe stato meglio togliere di imbarazzo un po' tutti. Te lo chiedo a bruciapelo, poi ti dirò la mia opinione. Allegri, se dovesse fallire contro il PSV Eindhoven, deve andare via, il Milan deve cambiare, deve fare forse quel passo che non ha avuto il coraggio di fare a giugno, oppure in ogni caso è lui l'allenatore di questo Milan e ha diritto ad andare fino in fondo in questa stagione. Guardate che il tema non è poi, non siamo poi così fuori tema, perché l'appuntamento di mercoledì è un appuntamento fondamentale per il Milan. Beh, i diretti non esistono, 800240024 invece è il numero per le opinioni degli ascoltatori. I diritti non esistono, Allegri è mal supportato dalla proprietà e questo lo sappiamo bene, quello che gli si chiede è l'obiettivo minimo di entrare nella Champions League e quindi di guadagnare quei 30 milioni che possono permettere a Galliani di fare spiccioli di mercato. È chiaro che se dovesse fallire questo obiettivo la proprietà tornerebbe a farsi sentire, il clima tornerebbe, o meglio diventerebbe, io credo, impossibile da gestire per Allegri, dunque dovrà fare lui i suoi conti a quel punto, e non credo che abbia voglia di andare avanti per tutta la stagione in questo tiremolli, in attesa che il cielo si rassereni, perché il credito che aveva l'anno scorso e che si è bruciato nella prima parte della stagione dove Milan era quartettino in classifica, se lo sia già speso, credo che se non dovesse centrare l'accesso alla fase del girone Champions League dunque 30 milioni. Sì, bonus esauriti, assolutamente. Bonus esauriti, sì. Carlo, siamo a traffico, 800 24 00 24 per le vostre opinioni in diretta, poi vi dico che cosa penso io su Allegri, vi do anche le formazioni ufficiali di Inter-Genoa, potrebbe essere l'ultima di Moratti da presidente a San Siro e comunque la pensiate, è un momento storico per l'Inter, per la famiglia Moratti, ma anche per il calcio italiano. Adesso ci fermiamo, c'è il traffico. Sono così, ma non sempre vince il favorito. Tutti convocati. Non sempre vince il favorito, ha detto Rafa Benitez. Ha vinto ieri invece la favorita, e cioè la Juventus, che ha scoperto Tevez, Carlo, anche se secondo me quella di ieri è la prima vittoria della nuova Juventus ed è una vittoria di Conte più che di Tevez, che sarà un campione, un fuoriclasse. Ha fatto certamente un gol importante perché si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto, anche se in questo momento mi sembra che l'uomo che faccia la differenza nella Juventus sia Pogba più che Tevez. Però ieri la Juventus 69% di possesso palla, anche la rete è stato un ricamo straordinario, frutto di un lavoro, non tanto della presenza del tanto pubblicizzato top player. Ma certamente, intanto sentivo il traffico, Giovanni, oggi dobbiamo far compagnia a un sacco di gente che è in macchina, portate pazienza voi che viaggiate, Giovanni Capuano vi farà compagnia fino alle 7 aspettando le partite, però al di là di quello... ma certamente è stato il classico gol che si può dire lo facevo anch'io, no? Beh, magari io no, tu sì di sicuro. Ieri è stato una Juventus che ha vinto, si dice in questi casi, da grande squadra, grande possesso palla, grande personalità. Tevez, che oggi è stato incensato da un po' da tutti, dai giornali, non l'ho visto fare cose straordinarie. Deve ancora, secondo me, calarsi in questa Juventus, però mi piace tantissimo il suo atteggiamento ed è quello che ha sottolineato Conte, la dichiarazione che hai fatto sentire anche prima. Ne ho sentite di tutti i colori su questo giocatore, questo è uno vero, è uno che ha che agarra, che ha grinta, che ha cattiveria, che ha l'atteggiamento giusto e certamente sarà utile alla Juventus. Poi hai ragione, da vendere in questo momento straordinario è Pogba, perché ieri... Ripeto, il tocco di Tevez era facile, quello che ha fatto Pogba molto meno. Sì, tutto il movimento è stato molto meno facile, evidentemente anche molto più provato di quanto possa sembrare. È stata una giocata straordinaria. Sentiamo Buffon che sta parlando a Sky Sport. Chi ben comincia a metà dell'opera, ma mancano 37 partite, per cui insomma abbiamo fatto nulla. Ma che ha fatto nulla la Juventus, su questo non c'è dubbio. Carlo, formazioni ufficiali di Inter-Genoa, poi andremo a San Siro anche. L'Inter è quella che ha battuto una settimana fa il Cittadella, la prima Inter di Mazzarri, con Handanovic in porta, Campagnaro, Ranocchia, Juan Jesus sulla linea difensiva, Jonathan Guarin, Cambiasso, Kuzmanovic, Nagatomo a centrocampo, Alvarez dietro, l'unica punta che è Palacio, e mi suona questa come una bocciatura indiretta per Icardi. E poi il Genoa invece, Perini in porta, Versalico, Portanova, Manfredini, Antonelli sulla linea difensiva, Cofie, Lodi e Kučka a centrocampo, Bertolacci e Santana dietro la prima punta che è Gilardino, che da questo pomeriggio si gioca il mondiale. Per chiudere, Carlo, a proposito di grande personalità, ieri i 36 anni di Toni, che l'età si sente ma evidentemente non si arrende alla classe di uno che è pur sempre un campione del mondo. Oggi Alonso, che a me personalmente ha fatto venire i brividi, il mondiale lo vincerà Vettel, lui però usciva da un mese di polemiche, anche di parole dette un po' a sproposito, diciamo la verità, lo abbiamo criticato, però la sua reazione oggi è stata davvero da fuori classe. Ma guarda, io non l'ho criticato Alonso, è stato criticato in generale, ma io non lo critico, secondo me è il più forte pilota della Formula 1. E le sue parole erano state semplicemente di frustrazione per una macchina che, l'ho detto anche l'altro giorno, il valore della Ferrari è quello della Ferrari che guida Massa, che oggi è arrivato, mi pare, settimo. Esatto, il valore della Ferrari è quello. Se poi la Ferrari arriva oltre il settimo posto è tutto merito di Alonso. Alonso ha una macchina inferiore a quella degli altri, guida come un demonio e oggi ha guidato per dimostrare di aver ragione, e dunque è quello che ha fatto. Poi se per il suo compleanno vuole una macchina a livello di quella degli altri, ha soltanto ragione. Oggi ho visto lui, fenomeno, e ho visto Marquez, fenomeno, e l'abbiamo detto molte volte, il nuovo pilota, la razza 2.0 dei piloti del motomondiale, come si diceva l'altro giorno con Roberto Ungaro, uno che guida in un modo diverso, uno che vive la professione in maniera diversa, il primo pilota che esce dalla Moto2. Oggi abbiamo visto due fenomeni, uno è Alonso e lo sapevamo, l'altro è Marquez, ed è stata semplicemente una conferma. Ed è una conferma, quarta vittoria consecutiva, grazie a Carlo Genta. Grazie a voi, ci sentiamo domani, ciao Giovanni. Ciao Carlo, appuntamento domani a partire dalle 14 con tutti i convocati. Andiamo a San Siro, Andrea Sorrentino, inviato di Repubblica. Ciao Andrea, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. 40 minuti a Inter-Genoa, che è la prima di Mazzarri, potrebbe essere l'ultima di Moratti da presidente. Ci fai la fotografia di San Siro questo pomeriggio, che è combattuta tra queste due grandi emozioni, secondo me? Sì, secondo me la fotografia di San Siro e dell'Inter e dei suoi tifosi è un po' quella di una sensazione di sospensione, quella che tutto l'ambiente interista vive da questa estate praticamente. Si è in attesa di un cambiamento, di qualcosa che ormai è certo che dovrà accadere, per ora non accade e tutto è ancora un po' così in sospeso, a cominciare dalla squadra, perché oggi l'Inter scende in campo con una formazione che è per 10-11esimi la stessa di un anno fa, c'è soltanto Campagnaro tra i nuovi acquisti, perché lo abbiamo detto, adesso cerchiamo di ripristinare la linea da San Siro. Andrea, c'è soltanto Campagnaro, dicevi, dei nuovi? Sì, dicevo, è un Inter soltanto ipoteticamente nuova, è nuova soltanto in Mazzarri, è nuova in Campagnaro, ma per il resto è la stessissima di un anno fa, e quindi è un Inter che è ancora faticosamente alla ricerca di una nuova identità. È stata un'estate molto strana per tutti, Moratti ha avviato questa trattativa per la cessione che non si è ancora conclusa, Mazzarri si aspettava qualcosa di più, forse gli erano state promesse cose diverse, ma intanto si ritrova con questa squadra che è la stessa del nono posto, con giocatori che sono un anno più anziani e che secondo me non potranno combinare molto in questo campionato, a meno che non arrivassero dei rinforzi nell'ultima settimana di mercato, ma sarà difficile. La notizia di oggi, che altro, la più succulenta secondo me in questo momento, è la presenza di Samuel Eto'o a Milano. Sarebbe stato avvistato in città, probabilmente soltanto per una visita alla sua famiglia che vive qui, come è noto, ma insomma è una presenza che alimenta le voci di mercato su Eto'o all'Inter. Ma tu ci credi? Io ti dico la mia, sì. Se l'Inter prende Eto'o fa malissimo, va bene la suggestione, va bene il regalino di Moratti che lascia restituendo Eto'o ai suoi tifosi, va bene anche il regalo d'ingresso di Tohir, va bene tutto, però siamo di fronte a un giocatore che da due stagioni di fatto fa il pensionato, probabilmente non è più l'Eto'o di prima, costa comunque tanto, toglie risorse alle poche risorse che ha l'Inter per completare la squadra, secondo me sarebbe un errore. Sono assolutissimamente d'accordo con te al 101%, perché è esattamente quello che penso anch'io. E poi io suggerisco così proprio una considerazione sui fatti. Eto'o è libero ormai da quasi 3 settimane, sappiamo che l'Anzi lo lascerà libero per i noti problemi economici del club. Come mai in questi quasi 20 giorni nessun grande club internazionale ha ancora ingaggiato Eto'o? Ci sarà un motivo dietro, esatto, questa domanda. Esatto, perché è un giocatore che costa troppo di ingaggio e che comincia ad avere i suoi 32-33 anni ufficiali, poi non sapremo mai quanti ne ha davvero. Certo, noi abbiamo negli occhi l'ultimo Eto'o qui, che fu straordinario, segnò 37 gol nella sua ultima stagione all'Inter, però sono passati 2 anni e 2 anni sono tanti, soprattutto 2 anni nel campionato russo. Secondo me se l'Inter ingaggia Eto'o fa una fesseria colossale, soprattutto se gli darà un contratto da 2 anni a 4,5 netti a stagione. E io credo che questa fesseria qualcuno la eviterà, perché sarebbe dannosissima per le finanze dell'Inter e poi non aggiungerebbe nulla alla squadra. Certo, ovviamente sarebbe un giocatore che potrebbe portare qualche gol in più, però questa squadra ha bisogno di altri innesti, ha un bisogno dannatissimo di energie nuove, fresche a centrocampo, ha bisogno di qualcosa anche in difesa, secondo me non è Eto'o l'uomo giusto per migliorare questa Inter. Sì, non c'è dubbio. A proposito di forze fresche, giocano Alvarez e Palacio che fa la prima punta, non mi rispondere che Icardi non ha pienamente recuperato dall'infortunio, no. In realtà dalle amichevoli statunitensi, quando hanno cominciato comunque a contare, ad esempio mi viene in mente quella con la Juventus, non si poteva continuare a fare brutte figure per l'Inter, fino poi al ritorno in Italia, diciamo che quando ha avuto bisogno di mettere giù una squadra che avesse un certo equilibrio, Mazzarri ha sempre scelto il modulo con Palacio prima punta. Esattamente, e anche qui dobbiamo attenerci sempre soltanto ai fatti, che raccontano delle cose che non sono distanti dalla verità, ovviamente. Da pochi giorni dopo aver iniziato il ritiro in Trentino quest'estate, Mazzarri ha iniziato a chiedere a gran voce al club un centravanti, e questo ovviamente la dice lunga sulla sua considerazione nei confronti di Icardi, che è chiaramente troppo giovane e troppo acerbo per fare il centravanti titolare dell'Inter. E anche per quanto riguarda Belfodil, evidentemente ci sono delle grosse perplessità, a parte che Belfodil poi non è neanche un centravanti di ruolo. Quindi chiaramente Icardi è il grande bocciato di questa prima estate di Mazzarri all'Inter. Adesso vedremo se il club riuscirà a trovargli un sostituto adeguato e che non costi la vagonata di milioni che costa Eto'o, ma di sicuro Icardi è la delusione di questa estate, e quindi Palacio dovrà giocare da prima punta. Sappiamo benissimo che non è il suo ruolo, vedremo se funzionerà l'Inter con Alvarez. Insomma, è un Inter di passo corto e faticoso, almeno quella che andrà in campo, considerato il fatto che ci sarà anche addirittura Kuzmanovic titolare, con Kovacic e Taider che vanno entrambi in panchina. Sì, e siamo al 25 agosto, parlare già di bocciature così importanti dà il segno della difficoltà di questa estate interista. Grazie ad Andrea Sorrentino, grazie Andrea. Ciao a tutti, ciao. Grazie ad Andrea Sorrentino, inviato di Repubblica da San Siro, poco più di mezz'ora, dunque Inter che gioca con Palacio prima punta e Alvarez alle sue spalle, non c'è Kovacic che va in panchina, così come Icardi, gioca Gilardino, punta unica nel Genoa. Lo sentiamo Mazzarri ieri alla vigilia, chiede tempo per la sua Inter? Vi ho già detto che il calcio d'agosto per me ha un'importanza relativa, è servito per avere tante indicazioni in più dalla rosa, perché un conto è conoscere la rosa dell'Inter allenando il Napoli, un conto è cominciare a allenarla dopo ogni giorno dopo giorno, ogni singolo ragazzo, e ora credo di saperne molto di più di quello che ne sapevo un mese fa, 25 giorni fa, però è chiaro che ancora tante conoscenze, tante valutazioni dovrò ancora farne, perché appunto oltretutto alcuni ragazzi sono arrivati in corsa solo da poco con noi, quindi bisogna che ci prendiamo un po' di tempo per tutto. Siete in tanti che state scrivendo al 349-238-6666 sul Milan e sui suoi problemi, sulla sua difesa troppo debole, dopo leggiamo i vostri messaggi, così come vi ascoltiamo, 800-24-0024 per le vostre telefonate in diretta, siamo qui fino alle 19 per vivere la lunga vigilia intanto di Inter-Genoa e poi del resto della giornata della Serie A, questa sera alle 20.45 Cagliari-Atalanta, Lazio-Udinese, Livorno-Roma, Napoli-Bologna, Bologna, Parma, Chievo, Torino, Sassuolo, poi domani Fiorentina, Catania, poi vi facciamo sentire Montella, oggi durissimo sul caso Ljajic, adesso pubblicità e meteo. Tutti convocati. 349-238-6666 per le vostre opinioni in diretta sul Milan, sulla Juventus, su Alonso, su quello che volete. 349-238-6666 invece per i vostri messaggi. Ha scritto Lorenzo: il problema del Milan è la difesa, ma è il problema comune a tutte le altre squadre che sono in corsa per lo scudetto, tranne la Juventus e la Fiorentina. La Juventus è favorita soprattutto perché è la difesa nettamente più forte. Sottoscrivo, e lo diceva oggi secondo me l'analisi più lucida di tutte, anche Maurizio Crosetti su Repubblica, quando ha detto la differenza, almeno a guardare il primo sabato della Serie A, anche quest'anno la farà la solidità difensiva della Juventus. Juventus che ha vinto una partita importantissima. E poi Mario da Vicenza, quest'anno l'Inter rischia la Serie B, se si trova sotto il decimo posto rischia perché non è abituata a combattere per la salvezza. Io credo che difficilmente l'Inter farà peggio dell'anno scorso, anche perché l'anno scorso comunque è stata una stagione particolare. Michele da Ravenna, buon pomeriggio. Salve, salve. Prego. Niente, guarda, io sono tifoso juventino, ma non c'entra. Io chiamo per il Milan e per Balotelli, perché avevo sentito anche qualche giorno fa che voi ne parlavate, tutto il discorso del razzismo che si è fatto, ma di base c'è un concetto: Balotelli è antipatico. E le faccio una domanda e lei prova a rispondere. Lei pensi, qualsiasi genitore, al di là dei soldi che ha guadagnato, vorrebbe avere un figlio come Balotelli? No, io penso che sarebbe una disgrazia. Michele, io non mi permetto di rispondere a questa domanda. Sono affari di Balotelli, della sua famiglia. Io credo che un genitore voglia avere suo figlio a prescindere, qualunque sia quello che riserva il destino a Mario Balotelli, che è un ragazzo che comunque ha un carattere particolare, vive in maniera particolare la partita e rischia di consumare anche delle energie per questo modo di interpretare e di interpretarsi mentre gioca a calcio. Ad esempio, a me non è piaciuto il messaggio di ieri: non è colpa di Balotelli se il Milan ha perso, Balotelli non si deve scusare di nulla, il Milan ha perso semplicemente perché ha giocato male, e hanno giocato male in 11, in 12, in 13, non soltanto Balotelli. Saluto Franco Ordine, inviato del giornale. Ciao Franco. Eccomi qua, buon pomeriggio. Cosa ne pensi? Di quello che ho sentito prima? Sì. Ho sentito un signore, io sono entrato adesso in trasmissione, che diceva che secondo lui non ci sono genitori che vorrebbero Balotelli come figlio. È così? Sì. Ho sentito giusto? Assolutamente. Ecco. Ma siamo sicuri che ci sia in giro qualcuno che vorrebbe questo signore come genitore? No, ma noi non ci permettiamo, Franco. Io credo che Balotelli è un personaggio pubblico, divide, fa discutere, sì, quindi è dire tutto legittimo, però non esageriamo, insomma. Allora, Franco, scusa, c'è Moratti in diretta a Sky Sport. Vai. Anche lei ha la sensazione, insomma, che sta attraversando una fase epocale. No, ma non è bello dire l'ultima, non mi piace. Non mi piace e non credo, quindi niente. Qual è, insomma, un momento particolare anche per lei? È tanto che non parla, come sta vivendo? Un momento di discorsi con l'altra parte, se raggiungeremo un accordo va bene, per il momento non è stato ancora raggiunto, e quindi se no rimane tutta come prima, per la delusione generale rimane tutta come prima. Non è stato raggiunto, però qual è la sensazione, la sua sensazione per quanto riguarda questa trattativa? Vedremo, la mia sensazione è quella di fare le cose bene e poi cercare di capire se le cose che fai bene bastano. L'emozione è sempre la stessa, la prima di campionato con l'Inter? Direi proprio di sì. Le posso chiedere se da tifoso qualunque sarebbe entusiasta del mercato che ha fatto l'Inter finora? Beh, ma fra entusiasta e deluso c'è di mezzo il fatto invece di aver, credo che abbia fatto una campagna acquisti razionale, non condizionata assolutamente da niente malgrado quello che regga sui giornali, se non dall'attenzione certamente che bisogna fare, che mi sembra che facciano anche altre squadre in quello che possa essere la spesa e le entrate. Siamo sempre oltre perché abbiamo fatto più spese che entrate, quindi siamo sempre nella solita storia. Mi sembra, Franco, che Moratti con questo abbia voluto rispondere un po' a tutti quelli che descrivono come deludente il mercato dell'Inter bloccato nell'attesa di Toir. Intanto molto c'è l'abbraccio con Stankovic. Molto ingenerose le censure e le critiche, perché come ha segnalato il presidente, insomma, anche questa volta, anche in questo mercato, l'azionista deve rimetterci un po' di soldi per riportare in pari il bilancio. Quindi, insomma, si può discutere la cifra tecnica, allora, ma questo però è un altro ragionamento, ed è soprattutto un ragionamento legato anche a eventuali orientamenti determinati dall'allenatore. Tra l'altro, sul conto del quale io andrei piano, andrei cauto, perché è uno molto capace, lo ha dimostrato lungo tutta la sua carriera, non soltanto gli ultimi anni a Napoli. E non soltanto con materiale di prim'ordine a disposizione. Franco, però adesso parliamo di Milan. Io trovo assolutamente improprio aver scomodato i fantasmi della Fatal Verona per il Milan di ieri sera. Certo, nello sport il passato pesa, e come? Pesa perché ci sono campi che non sono come gli altri, stadi che ti sono ostili sempre e comunque, che rimandano ad esempio immagini in bianco e nero e voci di inizio anni 70. 5-3 per il Verona, lo scudetto per la Juventus. Chi se l'aspettava? Non di certo i 30.000 milanisti che da stamattina avevano invaso Verona. Oppure rimandano al pomeriggio più nero della storia del Milan di Berlusconi, 22 aprile 1990, con lo scudetto volato via insieme alla pazienza. Van Basten si è tolto la maglia e l'arbitro l'aveva indirizzato, ha indicato anche lui la via degli spogliatoi. E in finale di settimana abbiamo avuto una sentenza che io ho già definito come esemplare. Oggi abbiamo avuto questa partita, io ho definito questo arbitraggio altrettanto esemplare. Pellegrini ha portato in vantaggio Verona. E pertanto... questo è il boato di Bologna, dei tifosi napoletani, 10.000 tifosi napoletani che sottolineano la notizia dal Bentegodi. E poi ieri sera con questo Milan che secondo me non ha nulla a che vedere con quelli che abbiamo sentito di Rivera, Prati, Cudicini, Maldini, Baresi, Costa Curta, però Verona è stata ancora fatale. 2-1, finisce qui, ha vinto il Verona di Andrea Mandorlini. Che nostalgia, Franco, non solo per le voci di Ameri e Ciotti. Sì, sì, io però devo dire che non ho nostalgia, sai di chi? Non ho per niente nostalgia. Di chi? Indovino, di Lobello. Di quell'arbitraggio di Rosario Lobello, perché io c'ero a quella partita e in quello stadio e devo dire che ne rimasi francamente scandalizzato. Però ecco, non c'è nessun paragone tra questi precedenti. Ieri Milan ha giocato male, è stato sull'1-0 presuntuoso, ha sbagliato tutto, dal portiere fino all'allenatore, quindi non ci sono scuse. Penso che in questo momento stia attraversando improvvisamente la fase più acuta, la fase più grave dell'inizio della stagione, perché a questo punto non dovesse acciuffare la qualificazione mercoledì sera, saremmo già allo psicodramma. Sì, Allegri secondo me rischia e molto. Oggi il Corriere della Sera descrive Berlusconi come truce dopo il pareggio di Eindhoven, figuriamoci, ammesso che ieri sera abbia avuto tempo di guardare la partita di Verona, qual è il suo stato d'animo oggi? Sì, no, non credo che sia soddisfatto e contento, credo che le cose questa volta siano messe in modo tale per cui anche Allegri non può sottrarsi alle censure, alle critiche molto aspre, e infatti il silenzio di Adriano Galliani in queste ore mi sembra particolarmente rumoroso. Quindi si gioca tutto come in un'ultima spiaggia, quella di San Siro mercoledì, siamo già a questo punto? Purtroppo sì, perché insomma, il Milan non può permettersi di cominciare puntualmente tutti gli anni con una falsa partenza, e soprattutto non può farlo al cospetto di un avversario che obiettivamente avrà avuto coraggio, avrà avuto l'abilità aerea di Luca Toni, ma insomma non può essere considerato sul piano tecnico all'altezza della cifra del Milan. Secondo te quello che è successo a Verona cambierà i destini del Milan sul mercato nei prossimi 10 giorni? Solo e soltanto se dovesse arrivare la qualificazione. Ma serve un difensore, va bene gli Aic, poi sentiremo Montella che oggi di fatto ha chiuso con gli Aic dicendo che in queste condizioni lui si è stufato di aspettarlo. Esatto. Va bene Honda, però la verità è che a questo Milan serve almeno un difensore, ma almeno uno a essere buoni. Ma più che un difensore, qui da questo punto di vista quello che serviva ieri, che questa squadra non ha avuto, la ferrea determinazione, la concentrazione quasi feroce che c'ha la Juventus, voglio dire quella voglia instancabile che non viene a mancare mai, nemmeno nelle curve più agevoli del campionato, e quella di Genoa con la Sampdoria poteva essere anche particolarmente insidiosa. Questo è quello che manca al Milan, manca la continuità, il temperamento del guerriero, come si dice, ripetendo un luogo comune, negli occhi della tigre, insomma non c'hanno nemmeno gli occhi del gattino. Sì, non c'è dubbio. Grazie a Franco Ordine. Saluti. Grazie a Franco Ordine. San Siro, c'è Stankovic ai microfoni di Sky Sport. Ma l'immagine più bella rimane quella di Madrid, dove abbiamo toccato la cima. Il fazzoletto in tasca? Bisogna aspettarci qualche lacrima o no? Ma per adesso ti dico, sono molto emozionato, non so cosa mi aspetta, non so cosa troverò quando scenderò in campo, non so, mi batte il cuore forte, vediamo. Cosa farà Stankovic da domani? Da domani continuo con il riposo, è stata una bella lunga vacanza e... Spera ancora? Non voglio dirvi adesso, ma vediamo, faccio un annuncio presto. Stankovic che non ha ancora deciso se si ritira oggi, però saluterà il pubblico di San Siro fra pochi minuti, prima del fischio d'inizio di Inter-Genoa. Mancano 17 minuti, 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Noi adesso ci fermiamo perché c'è la pausa per il traffico, poi torniamo anche con le ultime da San Siro, ma apriamo la pagina sulla Juventus, che invece ieri è uscita vittoriosa dalla prima difficoltà di questo campionato con una vittoria che secondo me ha un peso specifico doppio. Io non so quanti saranno quest'anno capaci di andare a vincere a Marassi contro la Sampdoria, che a me è sembrata una squadra molto quadrata, la tipica squadra di Delio Rossi. Secondo me la vittoria di ieri della Juventus è molto più bella, molto più importante rispetto a quella di settimana scorsa in Supercoppa contro una Lazio un po' spensierata tatticamente, diciamo così. 800 24 00 24. Tutti convocati. Nel lavoro di Mazzarri saranno sicuramente due ragazzi su cui l'Inter potrà contare per parecchi anni. Piero, ecco, a proposito del lavoro di Mazzarri che tu sottolineavi. Sta parlando Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, sentiamolo. Quest'anno si è speso più di quello che si è incassato. È un mercato veramente difficile, no? È proprio difficilissimo accontentare, diciamo, la proprietà facendo una buonissima squadra. Ma è difficile perché si vuol tenere i giocatori bravi, forti, quelli che eventualmente porterebbero anche a far cassa. Noi abbiamo scelto questa strada e magari è quella, come dire, dal punto di vista economico-finanziario più difficile per il club, però sono convinto che ci ripagherà poi, spero, a livello tecnico. È normale che se fai delle scelte come quelle che mi sembra aver capito sta facendo la Roma, portano del denaro fresco in cassa, ma allo stesso tempo ti privi di giocatori che poi è anche difficile sostituire. Noi abbiamo preferito puntare su quei giocatori importanti che abbiamo, inserendo dei giovani. Abbiamo fatto delle operazioni anche a costo zero, come quella di Campagnaro, che forse è stata per esempio troppo sottovalutata dai media e da tanti. Questo è un giocatore importante che ci serviva, è venuto... Sì, operazione dei giovani, sta dicendo Piero Ausilio, però oggi c'è Icardi in panchina, c'è Belfodil in panchina, c'è Kovacic che però è infortunato, sta recuperando in panchina, c'è Taider che parte ancora dalla panchina, c'è la sensazione di un Inter che non sia migliorata rispetto all'anno scorso, almeno non in questo momento, e in ogni caso è un Inter che per 10 undicesimi è la stessa Inter che è arrivata a nona un anno fa. 800 24 00 24, Dario dalla provincia di Varese, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, salve. Senta, io mi sono messo in contatto, in comunicazione poco tempo fa, quindi non so se per caso vi ha chiamato quel signore di Verona, però è la mia una constatazione sulla partita di ieri. Il giorno dopo i sorteggi, io mi ricordo che chiamò uno di Verona e disse: il Milan perderà 2-1 con doppietta di Toni. Io e anche voi, mi ricordo, avevate un po' sorriso a questa cosa, però era più che altro una constatazione. Ci auguriamo che se la sia giocata, Dario. Così oggi no, se la sta godendo. Non ci ha chiamato, ma avrà anche di meglio da fare se ha scommesso. No, però guardi, è stato incredibile perché nessuno ci avrebbe mai creduto. Ci avrebbe mai creduto, Dario, anche se a me non stupisce come è finita ieri. Io ho trovato, ad esempio, un po' benevoli i giudizi sul Milan dopo la trasferta di Eindhoven. Secondo me qualche crepa si era già vista, e se nel primo quarto d'ora qualche pallone fosse andato diversamente, qualche rimpallo, probabilmente avremmo già lì parlato di una situazione diversa. Buon pomeriggio a Toni Damascelli. Ciao Toni. Ciao a tutti, buongiorno. Non stupisce la caduta del Milan, come non stupisce del resto la partita della Juventus di ieri sera. Guarda, solita Juventus scolpita nel granito. Stavo pensando, ascoltando la telefonata dell'ultimo ascoltatore, che per fortuna Dario ha chiamato Radio 24 e non è stato intercettato, perché altrimenti quella sua previsione poteva prestarsi a chissà quale interpretazione, no? Però 2-1, doppietta di Toni. Toni addirittura, c'erano gli estremi tutti perché la partita fosse combinata. Invece della Juventus? Al di là della mia provocazione, la Juventus ieri sera ha fatto una partita da normale, sì, con molto cervello, non ha sofferto parecchio, aiutata anche dalla pioggia, così come la Sampdoria, perché quando piove le forze fisiche, c'è un recupero della forza fisica immediato, la respirazione è tutto presto, insomma, avviene in maniera quasi naturale. La squadra, secondo me, ha ribadito alcune indicazioni che aveva offerto contro la Lazio. Mi sentite? Sì, ti sentiamo, vai Toni. Contro la Lazio, e dall'altra parte la Sampdoria ha cercato di infastidirla con un solo giocatore. Questo giocatore Gabbiadini, che secondo me è una certezza già tra i giovani del calcio italiano. Non più, non altro. Non mi ricordo di interventi strepitosi o clamorosi di Buffon. Ho visto, va bene, qualche azione in area di rigore sulle quali si può anche discutere da una parte o dall'altra. Comunque la Juventus, secondo me, ieri sera ha dimostrato, se qualcuno avesse dei dubbi, di essere in piena facoltà dei propri mezzi. Poi bisogna fare i conti con la fortuna, con gli infortuni. Anche questo è un segnale, perché si è fatto male Marchisio nella partita precedente e Pogba ha potuto giocare titolare. Sì, io non so Toni come sarà possibile toglierlo Pogba. È vero che la Juventus ha tantissime partite davanti, a una stagione stressante, poi ci sarà anche il mondiale, interesse anche dei giocatori ogni tanto tirare il fiato, però in questo momento Pogba è davvero un giocatore mostruoso che fa la differenza. Anche ieri è stato decisivo nell'azione del gol, e non solo. Ci sono 4 titolari per i mondiali, cioè Pirlo che è titolare per i mondiali, Marchisio è titolare per i mondiali, Pogba è titolare con la sua nazionale, perché l'ha già detto adesso Vidal, idem con patate, lì bisognerà fare una scelta, chiedo scusa, non di uomini ma tattica, con una revisione in corsa di quello che è una soluzione di gioco della Juventus. Ritengo che l'uomo più vicino al sacrificio possa essere Marchisio, anche perché Marchisio già dall'anno scorso ha denunciato una sorta di inversione o involuzione che mi ricorda molto quella di Daniele De Rossi con la Roma, quasi una vita parallela di entrambi, che nei loro club non riescono a essere quello che erano fino a 2 anni fa. Il Milan di ieri non mi ha stupito, una squadra lentissima con un giocatore di grandissimo talento ma indisponente, Balotelli, tanto per cambiare. Mario Balotelli non ha ancora capito cosa significa essere un professionista di grande livello. Lui si lamenta per l'entrata degli avversari, dovrebbe guardare, visto che ne ha tempo e voglia, diciamo tempo più che voglia, dovrebbe guardare quello che è capitato in passato a Ronaldo, quello vero direbbe Mourinho, a Maradona, a Zico, a Platini, a Di Stefano, a Cruyff, a Van Basten, a Rummenigge, a Lothar Matthäus, e stare zitto, riflettere. Mi rendo conto che riflettere è un verbo molto azzardato per il personaggio in questione, però o si fa così oppure il signor Balotelli Mario non crescerà mai. È un talento sprecato per il Milan e per il nostro calcio. Sì, è un talento che si brucia in altro, si brucia nell'attesa, nel modo di vivere le partite. Io l'ho detto prima, anche il messaggio con cui ieri sera ha chiesto scusa per essere il responsabile della sconfitta del Milan, che era una sconfitta di tutti. Ma è stata una sconfitta. Non si capisce l'utilità. No, guarda, innanzitutto questa roba di twittare. Ma è la modernità, Toni, eh? Sì, ma la modernità va anche disciplinata, sai, va anche letta, va anche capita. Allora il ragazzo deve capire che indossa una maglia storica, che esisteva prima di lui e esisterà dopo di lui. Questo deve riguardare lui, deve riguardare chi gioca nell'Inter, chi gioca nella Juventus, chi gioca nel Napoli. Loro fanno cronaca, la società ha fatto la storia. Per cui il signor Balotelli ieri sera ha voluto fare il tweet dicendo che i giocatori del Verona sono stati eccezionali, solo i giocatori. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? È stata una maniera ancora un po' provocatoria di chiudere questa giornata in cui si era parlato tanto di altro e poco di calcio. Tony, ti ringrazio e ti saluto. Grazie a Tony Damascelli. Buona partita. Ciao Tony. Sky Sport, lo spogliatoio del Genoa, i rumori del campo. Prima abbiamo visto Stankovic commosso che è entrato in campo per salutare i tifosi dell'Inter, a breve annuncerà se si ritira o se continua a giocare. Da qualche altra parte aveva su una maglietta con dietro scritto 326 volte grazie, 326 come le sue presenze con la maglia dell'Inter. C'è Fabio da Napoli che ci ha raggiunto all'800 24 00 24. Prima però sentiamolo Pogba, il grande protagonista della Juventus. Sì, è vero, quando ho firmato alla Juve prima dovevo giocare sul posto di Pirlo, ma il mister mi ha fatto giocare un po' davanti perché ho detto che io posso giocare su tutti i centrocampisti, quindi ho provato di giocare là, mi sento bene e adesso gioco più davanti. 800 24 00 24, andiamo a Como, Enrico. Buon pomeriggio. Niente, era per concordare in pieno quello che ha detto Damascelli, perché forse Balotelli dovrebbe proprio crescere un attimino a livello di persona. Come giocatore potrebbe anche esserci, però fino a quando non diventerà una persona adulta non riuscirà mai a sfondare in questo mondo, secondo il mio parere, e come giustamente ha detto anche Damascelli. Sì, però io credo, Enrico, che Balotelli sia questo nel bene e nel male. Oramai ha 23 anni compiuti, è giovane, non è più un ragazzino, ha certamente dei margini di crescita e di maturazione, però è così, lui vive la partita così. Questa settimana facevamo il paragone con Ibrahimovic, che è un altro che dal punto di vista psicologico spende tantissime energie nella vigilia, nel rapporto all'interno dello spogliatoio, nel rapporto con i tifosi, con gli avversari. Può anche essere un limite per tanti, ad esempio è stato un limite per Ibrahimovic nel non riuscire a fare il salto di qualità a livello internazionale, nel non riuscire mai a vincere la Champions League, e vedremo se ce la farà a Parigi, dove però è arrivato un altro grande spogliatoio come Cavani. Per tutta l'estate Ibrahimovic ha fatto capire di voler andar via. Balotelli è un giocatore di quel genere, non gli si può chiedere secondo me di cambiare, di fare qualche passo di crescita e di maturazione certamente, però Balotelli è quello e io ho l'impressione che sarà quello per tutta la sua carriera. Intanto squadre che stanno entrando in campo a San Siro, 800 24 00 24, per le vostre telefonate in diretta. Abbiamo sentito prima Moratti, potrebbe essere la sua ultima da presidente a San Siro, anche se Moratti ha detto che non è ancora il momento delle firme, che non ci sono certezze. Tutte le cronache però dicono che il 3 settembre ci sarà il passaggio di consegne con l'indonesiano Tohir, e allora comunque voi la pensiate, oggi potrebbe chiudersi un'epoca importante durata 18 anni. Moratti. Legarsi all'Inter vuol dire essere pronti a vivere una vita emozionante. È come uno che fa un viaggio d'avventura, insomma, per cui deve avere sia. Non è un viaggio comodo, è un viaggio che può essere scomodo, ma che ti dà tante di quelle emozioni che ti rimane in mente. Credo che statisticamente sia impossibile non aver avuto occasione da rigore in 21 partite, compreso oggi. Un rigore inesistente che ti viene dato contro, allora tutta la buona fede di tutti, ma io non ci credo. Credo credo, spero che la famiglia rimanga in mente, soprattutto mio padre, come un momento di storia molto importante, decisivo devo dire, per portare la squadra a livelli internazionali e essere conosciuta e amata anche nel resto del mondo. Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Intanto 6 minuti a San Siro, 0-0 tra Inter e Genoa. Inter però che mi sembra frizzantina, ci sta provando. Saluto Federico Casotti, collega di Sport Italia, amico di tutti i convocati, che è qui con me. Ciao Federico. Ciao Giovanni, una buona domenica a tutti, un buon campionato a tutti. Mi sembra un'Inter discreta, non più di discreta, siamo dopo 6 minuti, però di sicuro Mazzarri quello che ha promesso, cioè la garra, la voglia di lottare, lo sta trasmettendo a questa squadra. Poi i difetti restano, ne abbiamo parlato con Andrea Sorrentino, con Toni Damascelli, questa è una squadra ampiamente incompiuta. Sì, ma mi pare che il terzetto di interni di centrocampo sia un terzetto dove la garra non manchi, insomma, tra Kuzmanovic e lo stesso Cambiasso, che è un po' la chioccia di questa squadra, e pure Guarin. È interessante secondo me la scelta della coppia d'attacco Alvarez-Palacio, perché lasciare fuori contemporaneamente i due nuovi arrivati, Icardi, Belfodil, diciamo che dà fiato a quelle che sono, che possono essere impressioni e suggestioni di mercato, e considerato che ci sono ancora una settimana e più di trattative aperte, diciamo che l'impressione è che Mazzarri, che è uno che limita sempre al minimo i rischi, abbia voluto provare a vedere questa coppia, che comunque anche contro Cittadella aveva dato l'impressione di essere molto più in palla rispetto allo stesso Icardi. Sì, Mazzarri la pensa diversamente da Moratti, che abbiamo sentito prima, e ha ricordato che comunque questo è un mercato in cui lui mette dei soldi, perché l'Inter chiude in negativo. Salutiamo però l'uomo del giorno, così rispondiamo anche agli amici da casa che ci chiedevano di parlare con il grande protagonista della giornata di ieri. Buon pomeriggio Andrea Mandorlini. Buon pomeriggio. Buon grazie. Pomeriggio mister, com'è stato il risveglio questa mattina a Verona? No, mi sono risvegliato, sono venuto a casa, era bene, però bello, dai, una bella... Non sembra ancora vero, però insomma abbiamo fatto una buona gara, insomma meglio di così un esordio non si poteva obiettivamente prevedere, quindi siamo molto contenti. Sì, non si poteva prevedere, anche se spesso mi sembra si sottovaluti l'entusiasmo, l'equilibrio che le neopromosse hanno, soprattutto nelle primissime giornate, la freschezza anche atletica che possono mettere in campo. Spesso quando vengono sorteggiati i calendari si va a cercare la difficoltà nello scontro diretto di alta classifica, mentre invece le trappole sono a giocare con squadre come il Verona, che stanno bene, hanno un impianto di gioco e hanno grandissime motivazioni. Ieri voi festeggiavate il ritorno in Serie A dopo 11 anni. Basta, tutte cose vere, stavo bene, ma soprattutto insomma per noi era una partita, al di là che all'inizio della stagione, con un coefficiente di difficoltà molto alto. Poi credo che il Milan è una delle squadre anche già più pronte, visto che doveva fare questo preliminare, insomma i preliminari di Champions League, quindi tante cose si erano messe per trovare insomma una squadra pronta. Noi avevamo fatto anche la Coppa Italia a Palermo, che avevamo sofferto tantissimo, però come si vuole nel calcio non si può mai dire niente. Abbiamo sofferto moltissimo nei primi quarto d'ora, forse più l'impatto dell'esordio e l'ambiente, e il Milan ha fatto meglio di noi, quindi è stato un vantaggio. Poi abbiamo sofferto un po', però poi abbiamo smesso di pensare a tutto il resto, abbiamo pensato un po' più a giocare e abbiamo fatto una buona gara, ecco. Sì, ripeto. Non c'è dubbio, questo per dire che ad esempio questa sera secondo me la Roma rischia tantissimo Livorno. Federico Casotti. Salve mister, complimenti. Salve. Innanzitutto per ieri, ecco, del Verona mi colpisce in realtà anche poi nella formazione della rosa, questo mix di giovani e di scommesse, come poteva essere quella di Luca Toni. Ad esempio penso a un ragazzo come Samuele Longo, che è arrivato da poco, e quanto potrà imparare da Toni nell'allenarsi anche tutti i giorni con un campione del mondo. E in generale, ecco, l'apporto di Toni al di là dei due gol è importante anche nella quotidianità dell'allenamento per aiutare il resto della squadra a ambientarsi facilmente nella Serie A, che non è la Serie B, non è nemmeno la Lega Pro. Ma no, assolutamente, il caso di esperienze, di quant'altro, è determinante, però poi quello che rimane sotto gli occhi di tutti è quello che poi avviene nella partita, è lì quello che conta. Quindi lui non è sicuramente una scommessa, un giocatore maturo, però sereno, tranquillo. Forse sarà l'ultima stagione, quello che lui ci dice, però adesso lo vedo veramente bene, sta bene fisicamente, mentalmente, e credo che insomma sia anche in un ambiente che possa aiutarlo. Poi tutti i giovani che sono arrivati avranno modo e tempo per mettersi luce, però credo che sia bello, importante, e mi è capitato anche a me quando ero giovane, insomma, giocare insieme a campioni e si impara meglio e più in fretta. Intanto Inter vicina al vantaggio con Ranocchia, colpo di testa fuori sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sono curioso, Mandorlini, di capire se è Luca Toni che vi ha convinto a dargli questa opportunità o se siete stati voi a decidere di puntare su un ragazzino di 36 anni che è stato un campione del mondo l'anno scorso. Aveva fatto una buona stagione alla Fiorentina per quello che era il ruolo che gli aveva disegnato Montella, ma era pur sempre quasi un prepensionato, o almeno così veniva identificato. Sì, è un po' esagerato, ma noi Luca insomma voleva rimettersi in gioco. A Firenze gli davano insomma questa sicurezza, poi insomma le cose le sanno loro. Noi avevamo bisogno di esperienza, avevamo il capocannoniere della Serie B, Daniele Caccia, che però non aveva mai esperienza, quindi dovevamo mettere un giocatore di un certo tasso, soprattutto di esperienza. Quindi abbiamo puntato su Luca e credo che almeno adesso siamo contenti e speriamo sia così tutta la stagione. È chiaro che ha 36 anni, però come ho detto prima, sia Longo, Caccia e Gomez e tanti altri credo che devono essere pronti, perché sono un campionato talmente lungo e importante. Adesso Luca è il terminale, quello che sta facendo bene, speriamo che duri, ecco. Se fa così va ai mondiali, se fa così tutte le domeniche. Sì, l'ho detto anche con Luca, sarebbe bello, perché comunque, come sapere, in questo momento non è che ci sia, e sarebbe veramente un qualcosa di più, di grande, però credo che la cosa più importante insomma faccia bene per il Verona. Del resto Prandelli ha detto che lui li guarda tutti, guarda anche Del Piero che sta in Australia, perché mai non dovrebbe dare un'occhiata anche a Luca Toni? Ma anche perché come caratteristiche siamo in un momento, io credo che insomma di Mario Balotelli, insomma, che anche lui fisicamente, però insomma Luca è un giocatore ancora che se integro dal punto di vista fisico insomma ha poco da temere, i centimetri, la forza di difensori importanti, ecco. 8-0-0-24 quarto d'ora di gioco quasi a San Siro, 0-0 tra Inter e Genoa. Mister, io le chiedo un minuto di pazienza perché abbiamo ancora un paio di domande da farle. Prima però ci sono le informazioni sul traffico. Tutti convocati. Non si gioca soltanto in Italia in questo momento, in Premier ad esempio all'ora di gioco il Manchester City sta vincendo a Cardiff 1-0, gol di Dzeko, vince anche il Tottenham 1-0 contro lo Swansea. Ha appena segnato il Tottenham, domani dovrebbe essere il giorno di Bale che sta aspettando di essere annunciato dal Real Madrid. A proposito di calcio internazionale, Mandorlini, mercoledì il Milan affronta il ritorno contro il PSV. Come l'ha visto questo Milan? Io, questo è il mio giudizio personale, male, ma l'avevo visto male anche ad Eindhoven, a dire la verità. No, io a Eindhoven l'avevo visto molto molto bene. Infatti ripeto quello che ho detto lì, per noi era una partita veramente di difficoltà altissima. E ieri bene, un quarto d'ora forse noi molto impauriti dietro, e dopo dal punto di vista fisico, ecco, li ho visti un po' così, forse non reattivi, non come Eindhoven, ecco, però al di là di tutto insomma sempre una partita che va giocata su due gare, quindi credo che ha tempo per recuperare, credo che mercoledì insomma farà di tutto per passare questo turno. Federico. Sì, volevo tornare sulla partita di ieri e in particolare sull'aspetto ambientale, perché è stata una partita forse caricata di eccessive pressioni, di eccessive aspettative a livello extra sportivo. Mi pare che poi alla fine sia finito tutto nella goliardia, o comunque nel normale sfottò, come era giusto che fosse, visto e considerato anche che mi pare che Verona avesse comunque abbia fame di grande calcio, e c'era la volontà di non rovinare tutto, ecco. No, infatti hai detto giusto, sono stati bravissimi tutti a rimanere sempre nei canoni dell'ironia per quanto riguardava appunto questi i cori o qualt'altro contro Balotelli, però per del resto anche nel pre-gara si è parlato sempre troppo di questo e poco di calcio, e questo credo che non sia bello, però ripeto, siamo stati bravi tutti e bisogna continuare su questa strada, non dare adito ad altre situazioni che immancabilmente potranno poi ritrovarci con andare delle partite. C'è un amico che ci scrive al 349-238-6666 per mister Mandorlini: Balotelli ha giocato male più per la pressione del pubblico o per quella della fase difensiva del Verona? Io credo per la seconda, anche se, e lo stavamo dicendo, Balotelli è un giocatore che consuma vagonate di energie mentali nella preparazione delle partite, in questo suo rapporto conflittuale con il mondo esterno. Ma sì, forse quello, spende un po' di energie, però insomma è abituato anche a queste cose, agli eccessi. Ma anche se credo che nelle situazioni importanti il Milan ieri le ha fatte proprio tramite Balotelli, quindi il passaggio gol, il tiro e altre due situazioni, anche l'episodio molto dubbio nel finale, insomma era sempre coinvolto lui. Indipendentemente nel bene e nel male è sempre un qualcosa di importante che accade, quindi siamo stati bravi a arginarlo, però credo che insomma è un giocatore forte, è veramente, io era la prima volta che lo vedevo. Forse ecco, quello che ha detto un po' all'inizio, perde magari un po' di energia in quant'altro, in tante cose, potrebbe rendere molto di più. Ecco. Grazie mister Mandorlini, è stato un piacere. Niente, grazie a voi, buongiorno a tutti. Arrivederci. Grazie ad Andrea Mandorlini. Lo sentiamo Andrea Toni, Federico, il protagonista di questo sabato, 36 anni, Mandorlini gli ha detto che se va avanti così può anche andare al mondiale, chissà, le motivazioni fanno miracoli. Toni. Sapevamo che dovevamo affrontare una grande squadra e c'era un po' di tensione perché sai, essendo anche la prima in casa, sapevamo dell'entusiasmo che c'era qua a Verona, c'era un po' di aspettavamo tanto questa partita, poi è andata bene perché abbiamo fatto una gran vittoria, soprattutto abbiamo reagito dopo il loro gol e quindi sono tre punti importanti che continuiamo con questo entusiasmo. Danno ancora 0-0 Inter-Genoa San Siro, 19 minuti, partita equilibrata, mi sembra Federico non bellissima, del resto la qualità dell'Inter è questa, in questo momento in Premier ha pareggiato il Cardiff contro il Manchester City 1-1. 800-24-0024 per le vostre telefonate in diretta, partiamo da Giancarlo dalla provincia di Forlì. Prego Giancarlo, spenga la radio. Salve, buonasera. Dica. Io l'intervento è serio, cioè era una proposta, poi dopo ognuno prego. Sull'argomento che siamo serissimi anche noi. No, bravo, no, vabbè, sai, uno chiama. Perché anche perché non sono milanista, Balotelli, visto che è giovane, ha già cambiato tre squadre, fa ancora in tempo a prendersi un tutor, perché la carriera io gli auguro lunga perché è forte, ma se continua così diventa breve, quindi c'è un tutor in funzione che si chiama Del Piero che potrebbe prenderselo personalmente e usarlo per la sua lunga carriera, perché è giovane, poi dopo ditemi se ha detto una cavolata. No, ma lui ha già avuto un tutor, Federico, correggimi, perché Mancini è l'allenatore con cui ha lavorato meglio in assoluto, l'ha avuto che era un bambino all'Inter, eppure ha inciso e molto sulle ultime vittorie di Mancini, l'ha ritrovato a Manchester, mi sembra però che anche non Mancini abbia fallito in questo, ecco Federico. Lì. Sì, mi pare che Balotelli stia pian piano esaurendo i bonus, perché già adesso, diciamo che quest'estate, ha fatto 23 anni, ecco, 23 anni inizia a essere l'età, anche formalmente, nella quale anche nel calcio non sei più giovane, insomma, c'è l'under 23, dopodiché c'è la nazionale maggiore, ecco, e Balotelli, che ha già dimostrato tanto, comunque, soprattutto più con la nazionale, forse, che con i club, secondo me, qua è nell'anno davvero spartiacque della sua carriera, l'anno che porta al mondiale, è l'anno è un anno intero che può fare con il Milan, qua si capisce se Balotelli ha intenzione di diventare grande pur con tutte le sue il suo estro e le sue bizzarrie al di fuori del campo, ma li avevano anche Maradona e Cantona eppure risolvevano le partite, oppure magari arriva come Cassano che arriva a 32 anni, dici caspita già 32 anni e alla fine capisci che tutta la carriera gli è passata davanti. A proposito di carriere che sono nel pieno, c'è anche quella di Higuain, un amico da casa chiede se sarà più decisivo Tevez o Higuain, è una bella sfida sotto sottoscrivo, secondo me sarà più decisivo Higuain. Io mi sono sbilanciato venerdì, secondo me se ci fosse un euro da puntare per lo scudetto io lo punterei sul Napoli, anche se la Juventus è fortissima. Sentiamo Benitez alla vigilia. Loro sono favoriti perché hanno vinto due volte, è una squadra fortissima. Sono d'accordo che tutti le squadre hanno fatto qualche rinforzo, loro hanno preso Tevez, Llorente, due attaccanti sono forti, la Roma ha fatto lo stesso, la Fiorentina con Mario Gomez, tanti che hanno comprato giocatori, noi abbiamo fatto lo stesso. Mi sembra che il campionato sarà molto interessante, ma sicuro che oggi tutti dicono che la Juve è favorita perché l'anno scorso hanno vinto, la squadra ancora è forte, è lo stesso allenatore, è così, ma non sempre vince il favorito. Sì, mi sembra che tutti giochino a fare lo scaricabarile dei pronostici, Federico. 800 24 00 24, anche per sentire il vostro di pronostico. Secondo me Napoli numero uno sulla griglia, come direbbe Dan Peterson. Ma il Napoli ha fatto un mercato molto intelligente, perché si è, cedendo Cavani ha tolto anche la dipendenza da Cavani, e nello stesso tempo però ha preso un attaccante come Higuain, che almeno in teoria può garantire gli stessi gol di Cavani, che era un po' un assegno circolare da 20-25 gol a stagione. Ha preso Higuain e ha preso dei trequartisti che possono tutti segnare, potenzialmente sono quasi tutti la doppia cifra, anche lo stesso Callejon, che magari a Real Madrid ha giocato poco, però quando ha giocato ha segnato tanto. Dipenderà molto da come andrà la stagione, da come Benitez saprà ruotare gli elementi di impegno in impegno, perché c'è anche una Champions quest'anno da non trascurare, come invece fece il Napoli lo scorso anno con l'Europa League. Sì, Champions che ruba anche qui una vagonata di energie. Fabio da Napoli, buon pomeriggio. Prego. A proposito del mercato del Napoli, giorni fino a qualche settimana fa il Napoli cercava un centrocampista e un difensore, però poi alla fine ha preferito mantenere Radosevic e Fernandez come in difesa, pur potendo spendere ancora molti milioni. Come mai secondo lei ha deciso di non comprare più nessuno, visto che Aurelio De Laurentiis ha annunciato che il mercato è finito con Zapata? Sì, io non credo che il mercato sia finito con Zapata, Fabio, anche se De Laurentiis l'ha annunciato. Io credo che Fernandez meriti una chance al Napoli, è pur sempre un difensore della nazionale argentina e quindi avrà un suo valore. Secondo me il mercato del Napoli negli ultimi 10 giorni regalerà anche qualche movimento, probabilmente non in attacco, anche se personalmente ritengo che sia un errore non inseguire fino in fondo Matri. I 12 milioni che chiede la Juventus non sono, a mio parere, una cifra esagerata per un giocatore che garantirebbe ad Higuain un'alternativa importante, soprattutto nell'ottica dei tanti impegni. Federico? Sì, direi che io mi aspetto sicuramente dei colpi ancora da parte del Napoli. Non dimentichiamoci che gli ultimi 2 giorni di mercato sono sempre degli giorni di shopping compulsivo, poi che siano acquisti più o meno utili, più o meno sensati, questo è un altro discorso. Mi pare che però il Napoli, rispetto ad altre squadre, abbia ben chiari comunque quelli che sono gli ultimi tasselli che mancano. Uno di questi è Matri, per due motivi: innanzitutto per dare un ricambio di qualità a Higuain, ma anche per togliere un ricambio di qualità alla Juventus. E Matri potrebbe essere davvero un giocatore in grado di spostare gli equilibri del campionato, perché è vero che Higuain è potenzialmente da 20-25 gol, Matri magari potenzialmente è da 7-8-9 gol, ma sono quei gol che alla fine ti fanno vincere lo scudetto, e i numeri della Juve degli ultimi 2 anni lo dimostrano. Diagonale di Jonathan, intanto a San Siro, palla che si è persa sul fondo, Inter che sta provando a farsi vedere, ancora 0-0 però, e siamo al 26esimo del primo tempo. Nello da Bergamo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Volevo dire che a Fernando non è che si può, appena fa un errore ad Alonso, subito si può additare l'errore che fa. Penso che gli errori della Ferrari stanno soprattutto nel saper rinnovare il muretto per le scelte tecniche. E comunque quello che, quel poco che la Ferrari sta facendo è proprio grazie a Fernando, non ha un giusto supporto da parte dei tecnici e ci vorrebbe un profondo rinnovamento, va, in Ferrari. Sì, Io credo però un rinnovamento che a medio termine deve passare anche da Alonso. Secondo me non è il pilota numero uno al mondo in questo momento, è certamente un pilota straordinario, oggi l'ha dimostrato con orgoglio, ha tirato fuori una prestazione, io credo anche per cancellare queste settimane di polemiche seguite alle sue battute infelici, che hanno dato fastidio all'interno della Ferrari, che hanno un po' logorato il suo rapporto anche con i tifosi. Oggi Alonso è stato straordinario, sinceramente in passato, anche in questa stagione, non sempre è stato questo Alonso, non sempre è stato un pilota che fa la differenza. La strategia la sbaglia il team, ma io credo che un pilota pesante come Alonso debba avere una parola, e quindi non credo allo scenario per cui, se si sbaglia la strategia, è sempre solo colpa di Stefano Domenicali, che in questo momento è sotto accusa tra i tifosi della Ferrari. Sentiamolo oggi Domenicali dopo il Gran Premio di Spa. Sono contento perché partire da così indietro e arrivare secondi dimostra che Fernando ha fatto una gara straordinaria e che noi siamo lì. Questo Domenicali, noi siamo lì, ha detto. In realtà Vettel ha 46 punti di vantaggio su Alonso, che è saltato Raikkonen, è secondo in classifica. Ho l'impressione che il mondiale sia volato via, però ne parliamo dopo la pubblicità. Adesso ci fermiamo, pubblicità. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Torniamo subito dopo a San Siro, Inter Genoa 00 29esimo. Tutti convocati. Sempre 0-0 a San Siro, sempre 800 24 00 24 per i vostri interventi in diretta. Questa è una giornata anomala, questa è anche la prossima giornata del campionato, perché in realtà si gioca a mercato aperto. Federico, abbiamo parlato del mercato del Napoli, io ho l'impressione che saranno in tanti a muoversi, si muoverà l'Inter, certamente dopo mercoledì si muoverà il Milan, soprattutto se arriverà il pass per l'Europa, arriverà il pass per la Champions, e quindi la certezza di incassare a fine anno almeno quei 30 milioni di euro che fanno molto comodo al budget. Da chi ti aspetti il movimento più importante in questo finale di mercato? Ma io terrei d'occhio la Roma, sinceramente, perché a parte la cessione imminente di Lamela, ma io credo che Lamela in qualche modo dovrà essere compensata, la partenza dell'argentino dovrà essere in qualche modo pareggiata. Già di per sé è una cessione che mi lascia abbastanza perplesso, perché Lamela l'ho sempre ritenuto un giocatore che con Garcia avrebbe potuto davvero esplodere, e invece mi pare che Garcia è stato anche abbastanza chiaro, se si cede l'argentino andrà rimpiazzato, e voglio vedere chi accetterà di andare alla Roma, che non fa le coppe, come giocatore del profilo, di un profilo più o meno compatibile con quello dell'argentino. Terrei d'occhio il mercato della Roma, terrei d'occhio ovviamente, come ti dicevo, il mercato del Napoli e l'Inter, perché se davvero Eto'o in giro per la città, non si può far finta di nulla, ecco. Sì, stiamo provando a verificarla questa voce direttamente con il suo agente. Tutti poi teniamo d'occhio Ljajic. Oggi Montella si è spazientito, ha detto Ljajic così non ci serve, mi sono anche stancato di aspettarlo. Sentiamolo Montella. Io non ho tempo, voglia e pazienza di aspettare, anche perché non è sereno. Se fosse sereno per me sarebbe tutto molto più tranquillo, ma siccome non è sereno, si va dritto, insomma, dal mio punto di vista, a livello tecnico. Si va dritto anche secondo me dal punto di vista di Ljajic, che va dritto verso il Milan. Io non scommetterei tutti i soldi che ho sul fatto che poi vada a finire davvero al Milan. La Fiorentina ha già dimostrato con Jovetic che è capace di orientare le cessioni, se decide che per ragioni storiche, di rivalità, di rapporti, di comportamenti, non vuole che un giocatore vada in una determinata piazza. Però di certo la storia di Ljajic con la Fiorentina è finita. Direi proprio di sì, e mi pare che Montella l'abbia praticamente scaricato con questo, con le dichiarazioni di oggi. L'andare dritto per la propria strada significa semplicemente questo. Ecco, del mercato della Fiorentina, che è stato un ottimo mercato, mi ha stupito e mi lascia un po' perplesso proprio questo comportamento proprio a livello diplomatico, di inasprire in questa maniera i rapporti con Juventus e Milan, che sono un po' le grandi, anche con un certo peso a livello sia politico che tecnico, insomma, nel calcio italiano. Ecco, mi ha stupito molto, scelta coraggiosa da parte dei Della Valle, però diciamo anche abbastanza rischiosa. Sì, i Della Valle non hanno paura di litigare con nessuno. 800 24 00 24, Raffaele D'Avellino, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei, volevo farle soltanto una domanda, prego. Chiedere una sua riflessione. Per quanto riguarda il Napoli, torniamo quindi a Benitez, come è possibile far giocare Maggio, che è sempre stato un centrocampista, anche se un esterno destro, il ruolo di difensore puro, il quarto difensore di destra, che secondo me non ne ha le caratteristiche? Sì, è un problema anche perché Benitez, mi pare, si è abituato tradizionalmente a giocare con un esterno abbastanza offensivo e con uno che invece rimane più su posizioni difensive. In questo è molto diverso anche da come Mazzarri disegnava il suo Napoli. Federico? Sì, mi pare che però in questo momento Benitez erediti una situazione proprio figlia di quell'assetto tattico, e che nel mercato o non si è persa di vista o non si è riuscita a risolvere, perché poi anche intestardendosi ad esempio nella vicenda Suniga, poi chiaramente te lo tieni Suniga, e però devi farlo giocare, devi riportarlo magari a un tipo di ruolo che ricopriva Siena, ma lo stesso Maggio all'inizio della carriera ha giocato anche come terzino. È chiaro che sono due laterali entrambi con spiccate attitudini offensive e di spinta, e questo a livello di equilibrio della squadra complessivo può comportare qualche rischio. Sì, Zuniga che io venderei domani mattina, perché oramai le squadre non si possono più permettere di tenere lì dei giocatori in scadenza. Parliamo però di Alonso, della straordinaria rimonta di oggi a Spa. Saluto Giorgio Terruzzi, collega di Mediaset. Ciao Giorgio. Buongiorno. Fantastico, straordinario, dammi un altro aggettivo. Nel senso che amaro, no, è inutile. Deluso. Ha fatto un errore sabato, è partito nono, ha fatto una grande corsa domenica, è arrivato secondo. Se non fosse successo niente di tutto questo, arrivava secondo. Questo è il problema. Cioè, il problema è che quell'altro è primo sempre. Il problema è che questo è un mondiale che è finito, al di là dei punti. No, insomma, finito no, ma è molto probabile che finisca prima del previsto, a meno che non succedano delle cose francamente difficili da pronosticare, da prevedere in termini razionali, a meno che non ci siano proprio delle situazioni molto anomale, ma il vantaggio è molto rilevante, 46 punti, vuol dire che Vettel può permettersi due battute a vuoto, vuol dire che... E questo con un vantaggio tecnico ancora presente. Sì, oggi tutti hanno fatto la danza della pioggia, la pioggia non è arrivata, ho l'impressione che anche con un diluvio difficilmente Alonso avrebbe potuto ribaltare i rapporti di forza rispetto alla Red Bull. No, soprattutto Vettel è uno sul bagnato, è un ira di è capace Dio, di andare, no? non sì, regala nulla. Ci sono dei, no, addirittura non è mai sotto stress, no? Vettel, per cui è difficile immaginare che perda un vantaggio così rilevante con una macchina che è decisamente e stabilmente performante, con un'alternanza tra l'altro di prestazioni degli altri, con nessun terzo o quarto che possono fargli perdere dei punti, perché oggi Hamilton che è partito davanti è stato davanti 300 metri, no? Certamente, c'è stato quell'abbraccio a fine gara tra Alonso e Vettel, in tanti stanno scrivendo un po' un segno di resa, la leggiamo così? Ma no, un segno di rispetto è una cosa che si fa a fine corsa, insomma, non... segno di resa, insomma, d'altra parte mi rendo conto che per uno, chiedo scusa, dal punto di vista di Alonso, la situazione è... pur alla fine di una giornata raddrizzata, di una prestazione straordinaria, non c'è, cioè lui a un certo punto è arrivato, quando è arrivato a 6 secondi. Sì, però non c'è mai stata l'impressione che potesse mettere nel mirino Vettel, che potesse pensare di andarlo a vincere questo Gran Premio. Giorgio, ci sono due ascoltatori che hanno chiamato, 800 24 00 24, se sei d'accordo li sentiamo insieme. Certo. Cominciamo da Pasquale, da Macerata, buon pomeriggio Pasquale. Buon pomeriggio a voi. Io sono strabiliato, nel senso che la Ferrari è quella che è, ma Alonso c'ha gli attributi, no? Siete d'accordo con me o no? Sì, io sono d'accordo che sia un pilota che ha un carattere straordinario, un talento straordinario, una carriera straordinaria. Secondo me in questo momento non è il numero uno, è questo che io dico. Pasquale. Perché non ha la macchina apposta, non gli sta niente da fare. Io sono italiano e sono marchigiano, ma chi più di me vorrebbe una Ferrari competitiva a livello internazionale? Purtroppo non c'è la macchina. E poi Montezemolo fa le pizze con Alonso perché ha detto, perché ha fatto. Alonso è un grande, e se vuole una macchina come il Diva per poter vincere. Alonso non sta là per prendere solo i soldi, per passare il tempo, no? Sì, Giorgio Terruzzi, secondo me non si può dire che si vorrebbe la macchina degli altri, la Red Bull, come non si poteva dire che la Ferrari era un camion, la celebre frase che costò il posto a Prost. Io la penso così, bisogna anche capire il contesto dove sei, però Giorgio. No, io penso che sia il più forte pilota in circolazione, ma non ha la macchina per vincere, non è un poveraccio sfigato. Succede a tutti, non vince, non è che non vince lui, non vince nessuno salvo Vettel da 3 anni, forse da 4 anni. Questo significa accettare anche questo, insomma. Poi nessuno della Ferrari ha detto siamo noni perché ha sbagliato Alonso, giustamente. Quindi Alonso, secondo me, che è un dipendente della Ferrari, un pilota della Ferrari, non può dire voglio la macchina degli altri. Anch'io vorrei fidanzarmi con Angelina Jolie, però non mi telefona mai, cioè il problema è questo qua, insomma. Sì, sono frasi che però spaccano un po' un gruppo. Da questo punto di vista Alonso, che è un talento straordinario, io lo ripeto anche se resto della mia idea, ma ovviamente Giorgio Terruzzi per noi è la Bibbia sulla Formula 1, e quindi da questo momento Alonso è il piede più pesante della Formula 1. Quelle frasi poteva risparmiarsele, quel tipo di atteggiamento, secondo me, coinvolgo anche Federico Casotti, non è un atteggiamento che fa bene alla squadra. Poi c'è la reazione d'orgoglio, di carattere, di talento di Alonso a Spa, però ad esempio c'è anche un errore gravissimo che di fatto ha compromesso il fine settimana, anche se Vettel non l'avrebbe preso nessuno. Federico? Sì, ma è stata una dichiarazione poco felice. Tu hai giustamente citato il famoso camion di Prost, e in quel caso la Ferrari andò con la mannaia, anche se era una stagione ancora più compromessa, se non ricordo male. No, volevo chiedere a Giorgio, ma È un Vettel che ormai, appunto, da 3, ormai diciamo 4 anni non lascia altro che le briciole, ecco, ma visto che è considerato che è pilota ancora giovane, il parallelo con un altro tedesco che qualche anno fa le vinceva tutte, può stare in piedi, è prematuro o cos'altro? Stiamo parlando di Schumacher, direi. Guarda, la storia, secondo me, la storia degli sport del motore hanno un elemento fondamentale e un po' casuale. Ovviamente parlando di prime scelte, cioè di piloti di grande livello. La differenza sta nel fatto che magari imbrocchi un filotto tecnico, perché sono sempre così, no? Cioè, imbrocchi un concetto che poi viene sviluppato di una macchina che si pone in maniera vincente rispetto alle altre per un lungo periodo. È successo a Vettel, è successo a Schumacher. E quindi in questo senso sono simili, cioè hanno imbroccato il tempo giusto per essere nel posto giusto, insomma, no? E questo cambia la storia. Poi io dico sempre una cosa, cioè lo dico a chi ascolta, lo dico perché me lo dico, valutare i piloti è molto difficile. Cioè io dico che Alonso, secondo me, è quello che offre lo standard di rendimento più alto in diverse condizioni nel tempo, però ci sono cose che non si vedono, cioè nessuno può dirmi oggi che corsa ha fatto un pilota di secondo livello con una macchina che magari presentava a lui dei problemi che non immaginiamo nemmeno, che sono molto superiori a quelli di un altro, arriva ottavo, ma magari la sua prestazione di guida è stata straordinaria, non lo possiamo sapere, quindi è difficile dire chi è più bravo. Sì, difficile valutare perché è troppo importante il peso della macchina. Soprattutto è difficile analizzarlo il peso della macchina, no? Che tipo di problematiche ha avuto oggi Grosjean piuttosto che Raikkonen, piuttosto che Vettel o Webber, chi lo sa, no? Per cui Poi ci sono delle macro dati. Allora Vettel, secondo me, è uno che ha imparato a vincere, che sa vincere, che ha, è un pilota di prima fascia, di primissima fascia, che ha avuto la fortuna di trovare alla giovanissimo una macchina sulla quale avrebbero vinto in più d'uno, secondo me. Angelo da Roma, buon pomeriggio. Salve, buon pomeriggio. Prego. Salutate Ruzzi, che stimo tantissimo, seguo tantissimo la Formula 1 e volevo sapere una cosa. Se però il problema è di Alonso, non è nelle qualifiche, nel senso, io sono convinto che un Hamilton e lo stesso Vettel, ma più un Hamilton, porterebbe la Ferrari comunque più avanti in qualifica, e partire più avanti nella Formula 1 conta, e come, cioè, io ricordo che in passato abbiamo avuto delle macchine molto più scarse, ricordo con sempre con tanta nostalgia Gilles Villeneuve portava la Ferrari dell'81 spesso nelle prime file, era una macchina da decimo posto. Cioè, nel senso che comunque Alonso, sì, se c'è qualche limite nelle prove, nei venerdì e soprattutto nei sabati, Giorgio? Sono abbastanza d'accordo, cioè, non così, come dire, tranchant, come dice questo ascoltatore. Cioè, è vero che secondo me il lato più debole o meno forte di Alonso sta lì. Poi i paragoni con quegli anni lì di Villeneuve non sono da fare, perché è una situazione molto, molto diversa tecnicamente. Potevi fare delle cose che adesso non si possono più fare. Però ripeto, la gara di oggi è abbastanza chiarifica un pochino. Cioè, Alonso, che ha fatto quella rimonta lì, a un certo punto è arrivato a 6 secondi, da quel momento lì ha preso decimi e decimi sul giro, tirando come un disperato, e ha chiuso a 16 secondi. Ora, puoi partire anche primo, Hamilton è partito primo oggi, al primo utilizzo della scia, Vettel gli ha dato 2 secondi. Sì, c'è una differenza in questo momento fra la Red Bull e le altre, che è una differenza incolmabile. Ha ragione un amico che scrive al 349-238-6666, i giochi di quest'anno sono ormai fatti, quindi è meglio progettare il futuro. Poi dalla prossima stagione arriveranno anche i motori turbo, probabilmente ridisegneranno in parte le gerarchie, bisognerà vedere chi sarà stato più bravo ad abituarsi al nuovo corso, però in questo momento la Red Bull è certamente inavvicinabile. Grazie a Giorgio Terruzzi. Grazie a voi. Tutti convocati. 800 24 00 24, finito il primo tempo a San Siro, 0-0 tra Inter e Genoa. Non una grande Inter, ha avuto 2 o 3 occasioni per trovare il gol del vantaggio, certamente un Inter di corsa che ci ha provato, un Inter migliore da questo punto di vista rispetto a quella dell'anno scorso, soprattutto a quella sfilacciata del finale di stagione, però mi sembra che la qualità in questo momento manchi. Non mi sorprenderei di vedere entrare nel secondo tempo ad esempio Kovacic o anche con il passare dei minuti Icardi, comunque qualcosa per dare un po' più di peso all'attacco. Federico? Sì, direi che Kovacic, il Kovacic che si è visto anche contro il Cittadella, è vero, ha un risultato abbondantemente acquisito, ma è un giocatore che ha un impatto sulla partita. Quindi l'Inter è un cantiere aperto più di altre squadre, ha un calendario a queste prime 2 giornate che sono tutto sommato anche abbastanza propizie, perché c'è la sfida col Genoa, poi la trasferta di Catania, ma diciamo che ecco, ha ancora il tempo per arrivare al primo vero scoglio, che è la terza giornata con la Juve, con un'idea, un'identità un pochino più formata, anche se mi sa che non basterà mezza stagione probabilmente. Sì, di sicuro Inter che ha bisogno di partire con una vittoria, ammesso che ci riesca questo pomeriggio contro il Genoa, perché dal punto di vista del morale sarebbe benzina importante. Però le difficoltà sono tante, anche il Genoa si è fatto vedere, ha creato un po' di situazioni, vedremo comunque nel secondo tempo. 800 24 00 24, intanto il telefono dell'agente di Eto'o suona spagnolo, quindi l'agente del telefono di Eto'o evidentemente in questo momento non è a Milano ma si trova in Spagna. Noi comunque continuiamo a cercare di avere conferme sulla voce che vuole Eto'o in queste ore a Milano. Massimo dalla provincia di Ancona, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. I complimenti alla trasmissione. Io volevo parlare un attimino del caso di Alex Fiorentina. Sì. Mi dispiace, io sono un tifoso del Milan, però certi atteggiamenti da parte di club importanti come la Fiorentina, che stanno ritornando anche a livelli europei, dovrebbero essere un attimino, ecco, un pochino più soft. Il problema della Valle, a mio modestissimo avviso, è il seguente: che per molti calciatori la Fiorentina non è un punto di arrivo, un punto di partenza, vedi Montolivo, vedi Vialic, vedi anche Jovetic. Penso che se un giocatore voglia cambiare aria, sono liberi professionisti, loro non dovrebbero mettere dei veti nei confronti di quel club o quell'altro. Poi non mi è piaciuta, ho assistito alla presentazione della Fiorentina al pubblico viola. Indovino che non le è piaciuta la battuta di Andrea Della Valle. No, questa sera si gioca una partita europea, meritavamo di starci noi. Ci lamentiamo dei cori razzisti, della violenza degli stadi. Ecco, penso che io seguo anche il calcio estero. Non ho mai sentito un presidente, un dirigente di un club inglese, francese fare certe dichiarazioni, non le ho mai sentite, non vanno mai oltre, ecco, certe, no, insomma, io Ferguson l'ho sentito anche dire, ma di comunque, peggio, ecco, io Federico. Penso che Della Valle avrebbe potuto risparmiarsi. Ma su questo, non c'è dubbio. Dovremmo tutti tenere i toni più bassi. Ma su questo non c'è dubbio, Massimo. Ha fatto un ottimo campionato, se consideriamo che l'anno precedente ha rischiato di retrocedere. Non c'è dubbio. Se poi vogliamo pensare, dovevano essere lì. Io visto, mi ricordo Fiorentina-Genoa. Sì, però Massimo, a me non piace mitizzare nemmeno quello che succede all'estero. Non parliamo di quelli che sono i duelli sugli arbitri e la politica sportiva tra Real Madrid e Barcellona. Ferguson era il terrore degli arbitri in Inghilterra, Federico. Sì, cioè, non so, in Francia c'è il presidente del Lione, che è un tipo che ne spara di abbastanza grosse, ed è uno che se la lega abbastanza al dito. Ecco, magari si può discutere sul fatto che i Della Valle un po' se le leghino al dito, cioè l'anno scorso effettivamente sono andati avanti un po' troppo, forse anche con la Juventus sulla vicenda Berbatov, sei mesi dopo, quando si era capito che probabilmente ci avevano guadagnato entrambe da non prendere Berbatov, ma nel ricordare questo fatto evidentemente potevano risultare un pochino stucchevoli. Sono d'accordo con l'ascoltatore sul fatto che la Fiorentina per alcuni è percepita come un punto di passaggio se non di partenza, anche se poi è vero che i Della Valle stanno lavorando per far sì che sia il contrario e l'arrivo di Gomez lo dimostra. Secondo me la Fiorentina, come tante altre squadre, si è trovata in difficoltà quest'estate perché mai come in quest'estate i giocatori con un contratto in scadenza tra un anno e non più tra sei mesi o tra sei settimane si sono trovati ad avere un potere spropositato, cioè ormai diventa davvero dai per perso un giocatore con un anno di contratto, mentre magari fino ancora all'anno scorso c'era ancora un margine di trattativa, c'era la regola dei sei mesi, esatto, poi dopo la regola dei sei mesi in realtà esiste ancora, sì, ma adesso virtualmente ormai un anno è per perso, cosa ormai succede. Alessandro da Udine, buon pomeriggio. Buonasera e grazie a voi e saluti. Allora, io volevo dire questo: io difendo Juventina, vorrei difendere il Milan, che secondo me in questa trasmissione ha ricevuto delle critiche eccessive, Milan e Balotelli. Sì. È vero, hanno giocato male, hanno giocato malissimo, ma sono le primissime partite, sono tutti indietro con la preparazione, nuovi giocatori devono ambientarsi agli schemi. Io non dimentico mai che l'Udinese una volta nelle prime sei partite ha fatto un punto e dopo è finita al terzo posto e ha fatto uno dei suoi migliori campionati. Sì, però Alessandro, il Milan un anno fa, dopo otto giornate, era virtualmente retrocesso, ovviamente tra virgolette, dopo è arrivato terzo, però il Milan deve partire per vincere lo scudetto, e se tu sei virtualmente retrocesso dopo le prime 3, 4, 5 partite, significa che probabilmente arriverai in Champions League, ma la tua stagione di corsa per lo scudetto è una stagione già compromessa. Il metro di giudizio, mi consenta, è diverso. E poi io riporto cosa ha detto ieri sera a Costa Curta: gli hanno chiesto prima della partita, secondo te il Milan si è rinforzato? Risposta lapidaria: no, il problema era la difesa, mi sembra che non sia fatto nulla. Sottoscrivo. Paolo Bertolucci, buon pomeriggio, anzi buonasera. Buonasera a voi. Ciao Paolo, abbiamo 2-3 minuti per parlare degli US Open che partono domani sera. Meglio degli US Open che del Milan. Meglio del Milan sicuramente. Nadal strafavorito, mi sembra che nel torneo maschile da questo punto di vista ci sia poca partita, almeno a livello di pronostici. Sì, Nadal stratosferico in questo 2013, da quando ha ripreso qualcosa di veramente fenomenale, insomma nessuno si sarebbe mai aspettato una ripresa così fulminea da parte di un giocatore che era stato lontano 7 mesi dalle gare. Sì, i numeri evitiamo di tediarvi, però di fatto soprattutto sul cemento vince sempre, ha vinto praticamente sempre nei Master 1000 negli Stati Uniti, quando non ha vinto è perché a Miami non si è presentato, pronostico che sembra assolutamente chiuso. A me fa una grandissima tristezza vedere Federer invece confinato al 7° posto della classifica, credo che questo US Open sia per lui l'ultima chiamata, anche se legittimamente finché si diverte fa benissimo ad andare avanti. Sì, beh certo, insomma è un giocatore che, come dire, quando uno è abituato a calcare il palcoscenico della scala poi diventa complicato andare nei teatri di provincia. Lui sicuramente non arriverà a questo, nel senso che in ogni caso è sempre Federer e giocherà sempre sul centrale perché lo stadio sarà sempre strapieno, però ecco è arrivato probabilmente, mi auguro di no, ma insomma poi capita a tutti il momento di pensare di smettere e di uscire di scena da grande campione qual è stato. Sì, e probabilmente alla fine di questa stagione, io credo Federer qualche riflessione la farà. Abbiamo qualche speranza tra maschietti e femminucce noi italiani? Più nelle femminucce, come al solito da tanti anni, anche se devo dire che quest'anno i maschietti si stanno comportando piuttosto bene, insomma Seppi e Fognini ci hanno regalato diverse soddisfazioni, qua sono testa di serie, hanno diciamo almeno i primi due turni abbordabili e poi dopo naturalmente poi quando inizia il gioco delle teste di serie diventa tutto più complicato, però io credo che qualche gioia ce la possano dare, anche se non naturalmente difficilmente nella seconda settimana. Intanto la Schiavone ha pescato bene al sorteggio, ha pescato Serena Williams, pronostico chiuso perché così come abbiamo detto per Nadal il pronostico è abbastanza indirizzato nel torneo maschile, mi sembra che per quello femminile si possa dire la stessa cosa su Serena Williams. Sì. Grazie a Paolo Bertolucci. Grazie mille, buonasera. Grazie Paolo, comunque da domani gli US Open, domani torna anche tutti convocati alle 14 con Carlo Genta. Io intanto ringrazio Federico Casotti che ci ha fatto compagnia questo pomeriggio, ciao Federico. Ciao Giovanni, un saluto a tutti e ancora un buon campionato a tutti, che sia un bel campionato. Ringrazio e saluto anche Giorgio De Luca, autore anima di questo programma Dietro il Vetro, così come Dietro il Vetro ringrazio Fabio Cantadori e Paolo Corleoni che si sono alternati in regia. Un saluto anche da Giovanni Capuano, tutti convocati weekend in diretta torna domenica prossima a partire dalle ore 17.